Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Lo spostamento di tutte le persone che hanno qualcosa o hanno avuto funzioni o hanno anche le scorte, insomma, che vanno in qualsiasi città, possono andare ovviamente per ragioni private o per ragioni di lavoro o altro. Stavolta tocca all'hotel di Orbetello, dove alloggerebbero gli uomini della sua scorta. Il bersaglio è sempre il presidente della Camera Fini. L'ultimo caso riguarda la senatrice del PD, Anna Finocchiaro, che fa acquisti all'IKEA con tanto di scorta che le spinge il carrello. Mi rendo conto che è più avvertibile per chi viva in una grande città, soprattutto a Roma, che è il centro pulsante della vita istituzionale del paese. Il fatto di veder circolare persone con autista, con tutela, con scorta, con lampeggianti, con sirene spiegate, è molto frequente. Vi devo dire che abitando sulla direttiva che porta allo stadio in cui si svolgono le partite più importanti nella capitale romana, mi capita molto spesso, affacciandomi una finestra, sul far del fischio d'inizio della partita, quindi 10 minuti prima che cominci la partita, un gran passaggio di macchine velocissime con lampeggianti blu e con sirene spiegate, che sono naturalmente i signori della politica che all'ultimo momento hanno tanto il posto nella loro tribuna d'onore, si fanno portare allo stadio. Questo, dire, come percezione generale, non dà una bella immagine, non è qualcosa che riempie il cuore di fiducia nei confronti della classe politica. Io non vorrei fare il solito discorso populista e demagogico contro la casta, ma vorrei fare un punto di riflessione serio, concreto, riflettendo e confrontando la nostra situazione con quella che è la percezione generale in altri paesi d'Europa, rispetto al fatto che molti uomini impegnati in politica, impegnati in attività pubbliche o comunque lambiti in una parte della loro vita dai carichi istituzionali, continuano a generare con scorte, con persone che tutelano la loro integrità, che molte volte dà l'impressione che in realtà siano più che altro una sorta di status, una sorta di privilegio, qualcosa a cui non si rinuncia, un'indicazione di blasone attualmente vissuto o precedentemente vissuto al quale nessuno può rinunciare. 800240024. Secondo l'indagine del sindacato italiano lavoratori polizia della CGIL, a Roma ogni giorno si muovono 120 scorte, vale a dire 120 auto e altrettanto uomini delle forze dell'ordine impegnati in questo servizio contro i 60 dispositivi operativi ogni giorno a Madrid, i 43 a Londra e i 41 a Parigi. A Roma la polizia dispone di sole 40 auto volanti per ognuno dei 3 turni nell'arco delle 24 ore per il controllo del vasto territorio della capitale. Sui costi, il SILP CGIL stima che per una scorta di primo livello, quelle predisposte per le personalità ad alto rischio, composte da più auto e 9 uomini, si spendano circa 95.000 euro l'anno per le missioni in trasferta e 84.000 euro per gli straordinari. Secondo il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, in tutta Italia sono 585 i servizi di scorta con un enorme impiego di uomini delle forze dell'ordine impegnati a garantire la sicurezza di pochi. Solo a Roma sono 1.000 al giorno. Finora sono state tagliate 70 scorte di quarto livello, delle 174 assegnate a parlamentari ed ex ministri. Leggo già un commento sul profilo Facebook Melog Radio 24. L'esigenza di appropriarsi di privilegi vistosi appartiene al medioevo della politica, ancora viva e vegeta nell'Italia del terzo millennio. Non c'entra la sicurezza, ma il desiderio, aspettate che apro bene la scheda perché è più lunga, è lunghissimo questa cosa. Beh, il desiderio comunque di mostrare uno stato. Il fenomeno è paragonabile all'immigrato degli anni 60 che torna al paese natio per far bella mostra della sua macchina, mentre con i paesani vanno ancora con l'asino, o al parvenu che oggi compra un SUV e poi lo parcheggia in divieto in seconda fila sul marciapiede. Questo signore, che immagino sia straniero, che ha un nome straniero, mette a punto quello che è lo stato d'animo generale. Abbiamo sentito una scheda introduttiva con qualche dato, ma questa mattina abbiamo in studio Claudio Giardullo, che è segretario generale del SILP, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, che è proprio il sindacato che venerdì è uscito con un comunicato rivendicando questa esigenza di riguardare, rivedere i criteri comunque di assegnazione. Claudio Giardullo, buongiorno. Buongiorno a lei. questo diciamo vostro grido disperato, che mi sembra di riassumere nel termine, abbiamo difficoltà ad avere volanti per l'ordinaria esigenze di pubblica sicurezza, di vigilanza e sorveglianza, ma continuiamo a dare tutela e scorta a persone che in realtà ormai da anni non hanno più nemmeno i ruoli istituzionali. È questa la sintesi giusta? Sì, noi ricordiamo contemporaneamente che in questa fase in particolare ci sono tagli alle forze di polizia, particolarmente, come dire, pesanti, perché vengono dopo i 3 miliardi di tagli che erano stati fatti già dal governo Berlusconi alle forze di polizia. Cioè le forze di polizia sono in una situazione molto delicata. L'impegno dell'operatore ovviamente è ai massimi livelli, ma è innegabile che se si continua così, insomma, sarà sempre più difficile garantire la sicurezza ai livelli persino attuali, che insomma non sempre sono soddisfacenti, al cittadino comune. Allora, qualche taglio è stato fatto anche nel campo, diciamo, difficilmente identificabile, poi adesso cerchiamo quanto possibile, delle tutele, delle scorte armate, del privilegio di averci degli uomini al seguito, tante persone. Sì, allora il tema delle scorte è un tema non nuovo, insomma è ricorrente, perché periodicamente c'è, come dire, un ampliamento del numero delle scorte che vengono riconosciute, e periodicamente, ovviamente, quando si capisce che si sta superando il segno da diversi punti di vista, da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista etico, allora poi c'è qualche taglio, ovviamente, però ricomincia, è una specie di... Ma non è il problema che realmente che una volta che un personaggio ha avuto la scorta per un periodo limitato alla sua vita, difficilmente rinuncia e nessuno si prende la responsabilità di toglierla, poveretto, chissà, magari accade come la vigilessa che ha osato dire alla scorta di Cirieco De Mita non parcheggiare qui, e ha avuto anche dei problemi quest'estate durante una sagra paesana nella Vellinese. Allora il problema è la revoca. Cioè il problema del numero, dell'ampliamento del numero delle scorte nel nostro paese non riguarda l'assegnazione. Per arrivare all'assegnazione di una scorta c'è una procedura di verifica del livello di rischio, dell'attualità di questo rischio, c'è una procedura molto rigorosa. Quando viene assegnata una scorta si può essere certi che c'è dietro un pericolo. Il problema in Italia è la revoca. Cioè quando con il passare del tempo sono venuti meno i motivi, le ragioni che hanno portato all'assegnazione della scorta e gli organismi ritengono che non ci sia più pericolo per quella persona e quindi la scorta debba essere revocata, scattano meccanismi di resistenza e di pressione sulle forze di polizia e sulle autorità che devono decidere, che nella migliore delle ipotesi fanno prolungare i tempi di un bel po'. Io vedo qualche nome, metto dei nomi, ma non senza voler criminalizzare nessuno, però prendo dalla rassegna stampa che ho trovato su questo argomento: Olivero Di Liberto a 10 anni continua a girare con autista gente, l'ex deputato Carlo Torbini ha ben 4 uomini, Mario Baccini che non è più sottosegretario dal 2005 ancora 5 guardiaspalle, poi gli ex presidenti Camera e Senato, la Pivetti gli hanno tolta da poco ma ce l'ha avuta per 10 anni, Bertinotti ancora un agente di servizio, l'ex governatore Agazzolo Iera 3 finanzieri e il leghista Federico Bricolo 4, ecco, sono tutte persone che a pieno titolo avevano la scorta, la tutela, la necessaria capacità di aver persone che il necessario diritto che salvaguardassero la loro incolumità, ma adesso non ci si spiega perché. È questo il meccanismo, dice lei, nessuno alla fine, nessuno rinuncia ma nessuno ha nemmeno il coraggio di dire beh te la tolgo. No, il coraggio di toglierla c'è, le procedure diventano più lunghe, c'è resistenza, c'è resistenza e quindi c'è più spesa perché i meccanismi non possono essere così rapidi. Dopo un primo accertamento sull'attualità del rischio che fa dire no, possiamo revocarla, in questo caso non c'è un rischio, e quindi un primo tentativo, diciamo, di revocare la scorta, dopo la resistenza bisogna fare altri accertamenti, ovviamente bisogna avere elementi, come dire, ancora più evidenti che possano convincere in qualche modo la persona a non fare resistenza. Il tentativo ovviamente da parte delle autorità su una materia così complessa, insomma, è anche delicata. Sì, io vedo qualche numero del vostro comunicato. Cioè, sì. A Roma innanzitutto ci sono più macchine di scorta, il triplo che a Parigi, e già mi sembra tanto. Poi ogni giorno a Roma 120 scorte, quando a Madrid ce ne sono 43, sì. A Londra 41, 60 a Madrid, 43 a Londra, 41 a Parigi. Qual è il rapporto fra macchine e uomini che dovete impiegare per i servizi di scorta e quelli che in realtà dovreste impiegare per i servizi di tutela dell'ordine pubblico? Guardi, io do un altro numero, uno dei pochi spero, così non annoierò, che però dà bene l'idea di qual è la situazione del controllo del territorio. A Roma negli anni 80 circolavano in ogni momento, in ogni turno della giornata, almeno 25 auto, delle volanti, delle sole volanti più le auto che venivano messe nel territorio dei commissariati, da tre operatori. Adesso Roma, vent'anni dopo, trent'anni dopo, con una situazione dal punto di vista della sicurezza purtroppo cambiata e anche dal punto di vista, come dire, sociale, Roma riesce, la questura di Roma riesce a mettere 15-16 volanti nella migliore delle ipotesi per turno, da due operatori e non da tre. Questo dà già l'idea che c'è, come dire, incomprensibilmente, mentre c'è una domanda di sicurezza che aumenta da parte dei cittadini, e dico anche mentre... Invece quanto sono aumentate le auto di scorta? Le auto di scorta viaggiano ormai, in quel periodo erano un 700-800, adesso sono state ridotte, diciamo, a circa 600, come lei diceva. Beh, quelli erano prima. Anche anni abbastanza pesanti, sì, era la coda lunga degli anni di piombo. Sì, esatto, dopo gli anni di piombo, e quindi c'è una riduzione, però... Il punto è che non c'è paragone, insomma, rispetto ai livelli che si sono mantenuti sulle scorte non c'è paragone rispetto ai tagli che invece sono stati fatti dal punto di vista della sicurezza di tutti. Sentiamo un paio di ascoltatori. Roberto, buongiorno. Buongiorno Gianluca, io lavoro solitamente a Londra, no? E capo finanziario eccetera. Anche qui vanno allo stadio, diciamo, chiamiamoli notabili, no? Nessuno gli vuole togliere i privilegi eccetera, ma ad esempio perché ho avuto occasione di vederlo, di viverlo, vanno allo stadio e si organizzano con dei pulmini e sui quali c'è addirittura anche un agente, per cui, ma sono 20-30 persone, quindi vanno allo stadio e fanno queste cose e lo fanno anche per altri tipi di manifestazioni, quindi se uno non vuole perdere i privilegi, ma c'è sempre la maniera per risparmiare qualcosa. Ecco, era questo che volevo. Ma vuole mettere, arrivare con la macchina che sgomma, con la sirena, scendere di fretta e furia con le persone che ti aprono lo sportello, con la moglie, con la fidanzata al seguito, è tutta un'altra cosa, uno si sente quasi un membro della casa reale, e così col pulmino sembra una gita scolastica, molto diversa. Certo, certo, ma anche il fatto che per moltissime strade d'Europa, delle città d'Europa, non si vede quello che si vede a Roma, cioè sgommate, luci blu, no, molti vanno con la scorta ma in maniera assolutamente anonima, anche perché così non attraggono poi l'attenzione né dei cittadini né dei malintenzionati. Soprattutto ecco, l'area parcheggio degli uomini della scorta, che una volta accompagnati nel luogo istituzionale devono passare mezza giornata lì a aspettare ogni bisogno, che possono essere molteplici, impegni istituzionali, impegni di rifocillamento, impegni di dover andare qua e là, poi si è visto... gli uomini delle istituzioni cosa fanno? Studi interi di Cinecittà attrezzati all'antica Roma per fare feste e via dicendo. Comunque andiamo avanti. Fulvio, buongiorno. Buongiorno e buona trasmissione. Ma la mia è una sensazione di allergia e di nausea, perché sicuramente riconosco che alcune personalità politiche, istituzionali abbiano bisogno della scorta, è indispensabile che l'abbiano. Però rimaniamo nei dati forniti dal sindacato di polizia e con tutto quello che ci sta intorno. Però devo dire che da cittadino comune ho comunque una grossa allergia quando vedo queste scorte, questi lampeggianti in tangenziale che ti arrivano dietro l'auto, chiedono strada, forzano a darti strada. E il mio gesto di ribellione è che io queste macchine, io non do più strada, ma neanche per sbaglio. Ho avuto quasi uno scontro con la scorta del ministro Castelli a un semaforo di Merate, che volevano strada a tutti i costi. Io dicevo, ma questi chi sono? Vabbè, però se sono nello svolgimento a loro funzione, loro hanno un protocollo da rispettare, è giusto che sia così. Concordo. Su quello non c'è nulla da dire, una volta che sono lì loro hanno le loro consegne. Ma nella stessa maniera mi viene da dire che quando si viene a sapere dell'autodromo di Monza che gli uomini della scorta della Fornero abusano, secondo me, della posizione, cioè, veramente c'è una reazione di disgusto, almeno da parte mia. Ma in generale, guardi, adesso non so il caso che lei cita, non ne so nulla, quindi non ho argomenti per né confermare né smentire né replicare. È chiaro che dall'osservatorio esterno E viene sempre vissuto come un sopruso, perché chi si sta fermo al semaforo, chi fa le code, chi fa le file, vorrebbe sempre sperare dentro con le macchine lampeggianti ci sia qualcuno che giustamente viene tutelato perché ha una posizione particolarmente esposta. Ma molte volte, quando poi si vede scendere un personaggio, non ha più nessuna voce in capitolo nella politica, anche camminando a piedi o in bicicletta per Roma si vedono questi signori che ormai appartengono alla preistoria della politica, circondati da uomini, uno si fa qualche domanda. Vorrei a questo punto introdurre un'altra voce, perché mi interessa avere un confronto con le situazioni, se no rimaniamo ancorati ai nostri pregiudizi e ai nostri risentimenti. Dominique Danglars, buongiorno. Buongiorno. Dominique Danglars è un collega francese, inviato del settimanale Le Point, che ci fa il punto della... Non voglio sapere numeri e non ti chiedo di avere i numeri esatti, ma qual è la percezione generale del cittadino francese che vede passare i suoi politici o che ha l'idea dei suoi politici sotto scorta, sotto tutela? Ma a volte ci sono, come in Italia, francesi che sono un po' stufi di vedere tanti corteggi a Parigi, perché Parigi è una capitale dove ci sono tante riunioni internazionali. Però va anche detto che i corteggi, le scorte nelle strade di Parigi devono seguire il codice della strada, se non c'è, almeno che ci sia una situazione di emergenza. Dunque diciamo che c'è un po' meno arroganza nei macchine che circolano a Parigi nella circolazione. Ci si può vedere il primo ministro aspettare al semaforo con le due macchine più i due motociclisti che aspettano. Ma parli del primo ministro, però tu... Sto parlando del primo ministro. Tu vivi e lavori anche a Roma, quindi sì, puoi fare qualche confronto. Sì, ma io direi soprattutto che la scorta non è vista come uno status symbol. Per esempio la nostra ministra della sanità, che ha diritto a due poliziotti 24 ore su 24, l'ho incontrato poco tempo fa, lei questi due poliziotti le tiene la settimana dal lunedì al venerdì, ma le manda via il fine settimana e quando va in ferie, mentre la legge è lì con lei avrebbe il diritto di averle 24 ore su 24. E come sarebbe percepita l'opinione pubblica un episodio come è accaduto in Italia con l'onorevole Finocchiaro? Ed ero un personaggio alle istituzioni con la scorta all'IKEA a fare la spesa con i carrelli che compra le pentole e le padelle. Ma io credo che questo invece è un po'... per forza succedono queste cose, perché bisogna capire che questi uomini, questi poliziotti che fanno la scorta, non fanno niente per 99,999% del loro tempo. Poi si crea quel legame con il ministro, il politico, il responsabile, e viene un po' naturale di aiutare, perché loro devono essere sul posto. Dunque che fanno? Stanno lì con le mani in tasca. Il problema è a monte capire se c'è bisogno che ci siano questi poliziotti presso queste personalità che magari non sono più personalità a rischio. Però nel legame che si crea tra il protetto e i protettori, io credo che questi atteggiamenti sono un po' fisiologici. Sentiamo cosa ne dice Claudio Giardullo rispetto a quello che ha detto il nostro collega corrispondente francese. Sì, una precisazione doverosa. Il lavoro degli operatori delle scorte è un lavoro molto difficile, è impegnativo, è un po' come il comandante dell'aereo. Può non succedere niente per tantissime ore di volo e in un attimo è poi chiaro. C'è quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Quindi va detto che per tutti quegli operatori che lavorano, specie sulle scorte di primo livello, che hanno un livello appunto di rischio alto e attuale... Spieghiamo cos'è il primo livello, in cosa consiste? Così... La scorta, il dispositivo consiste nell'avere più auto, due auto più l'auto generalmente della persona scortata, blindate, e con tre operatori a bordo in ognuna delle auto di scorta. Quindi nove persone più o meno. Nove persone più o meno. No, sono sei persone, se ne hanno due auto più la persona scortata con l'autista. In Italia quanti hanno il primo livello? Il primo livello hanno circa 80 persone, circa 80 scorte hanno il primo livello, intorno a 80. Quelle persone impegnano il loro tempo di attesa, diciamo, da un'uscita all'altra per pianificare, da un punto di vista della sicurezza, il percorso ovviamente e le altre condizioni che possono essere. Loro hanno l'agenda quotidiana del personaggio. Hanno l'agenda, concordano ovviamente col personale, con i collaboratori della persona scortata, in quel caso se ci sono dei collaboratori, e definiscono un piano di difesa preventivo. Non è lavoro da poco. perché ovviamente da alcune scelte, nel fare alcune scelte può dipendere il livello di sicurezza. Non è che si girano i pollici. Quindi va detto che per quegli operatori che lavorano alle scorte, dove effettivamente c'è un alto rischio, non è un tempo morto, ma è di preparazione del momento più delicato. Per scendendo gli altri, di livello. Per gli altri ovviamente, man mano si scende di livello, scende anche questo tipo di impegno. Noi siamo quindi per prevedere un regolamento, ne accennava anche recentemente il Ministro dell'Interno, sembra d'accordo, un regolamento che possa, da una parte, come dire, aiutare le persone scortate a meno livello di rischio a assumere comportamenti, insomma, più etici, diciamo così, e dall'altra a fare dei risparmi, perché se una persona che ha un bassissimo livello di rischio, insomma, tant'è che ha una tutela, una cosiddetta tutela, cioè soltanto l'autista con la macchina, e non ha degli impegni molto frequenti nell'ambito della giornata, si può concordare con gli uffici che quegli operatori tornano e eventualmente sono addetti anche altre mansioni, in attesa però sapendo che quella persona ci può contare. Le leggo un altro messaggio arrivato sul profilo Facebook Melog Radio 24. Scrive Saro: vivo in Irlanda e la settimana scorsa ero al supermercato con mia moglie irlandese. Saluto un omino sulla quarantina che faceva la spesa. Mia moglie e l'omino gentile erano compagni di università. Breve chiacchierata, scopro che conosce bene Rocco Buttiglione. Lo conosce perché l'omino è senatore della Repubblica d'Irlanda. Dopo pochi minuti passa un ragazzino sulla ventina, gli dà una pacca sulla spalla, gli dice: «Ai, senatore!» Fatta la spesa, l'omino lascia il supermercato, salta in sella in bici e se ne va. 800 24 00 24. Stiamo parlando del nostro punto di vista di cittadini nei confronti dei tanti personaggi della politica, delle istituzioni, ma non soltanto, che hanno uomini di scorta, che hanno tutela e che logicamente, se guardiamo e allarghiamo il nostro punto di vista a un'immagine di tipo europea, vediamo che c'è una particolarità, c'è una singolarità. Molti mi scrivono: perché non dici che anche importanti giornalisti come Vespa, come Fede hanno la scorta? Lo dico, quando l'ho detto non è che risolvo nulla. Sentiremo poi se il nostro ospite può darci su questo qualche ragguaglio ulteriore. Il fatto è che si sta ragionando di ulteriori tagli che interesseranno anche appunto le forze di polizia, le forze dell'ordine. Siamo di fronte a una situazione che una città come Roma, un bacino di 5 milioni di abitanti, ha a disposizione 15 volanti che tutelano il territorio, più altre macchine commissariate, in tutto una quarantina di macchine che rispetto alla media europea sono pochissime. Sentiamo prima qualche ascoltatore. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. No, volevo portare una testimonianza che poi è una testimonianza, ma anche una risposta se me la volete dare. Io ho un amico che il fratello lavora nella polizia di Brescia e per me era due soldi in più si è messo a fare le scorte. Mi raccontava che quest'estate ha dovuto andare per lavoro in Sicilia perché questo politico che lui scortava, fra l'altro un politico che a Brescia non è neanche di primo livello, e si è fatto una settimana in vacanza nelle Oglie, e questo è andato giù in aereo, si è preso un bel albergo, è stato lì una settimana, si è fatto una vacanza e andava in spiaggia, in ristoranti. Cioè, la mia domanda è questa: ma in questo caso, ma il suo uomo cosa faceva? Nel frattempo questo uomo, questo politico era in vacanza con la famiglia. Sì, ma l'amico del cugino del non ho ben capito cosa faceva? Stava il politico, andava in spiaggia, lui stava lì a controllare che era tutto tranquillo, il politico andava al ristorante con la famiglia e gli amici, lui era lì che andava per controllare se era tutto tranquillo, ha fatto una scorta in trasferta. Ma la domanda è questa: in questo caso chi paga? Noi cittadini, il politico, le istituzioni, la polizia? Era solo una curiosità. Se era un uomo di pubblica sicurezza, è chiaro che è lo Stato che gli assegna, sì, quell'uomo, quello però è chiaro. Immagini, adesso la mia considerazione, sì, cioè, sì. In tre persone che si davano il turno, l'aereo, gli alberghi, i ristoranti, cioè non lo so, mi sembra un po'... Bisogna capire poi l'effettiva efficacia di avere soltanto una persona dietro. Fermiamoci, poi farò le domande al nostro ospite, Davide. Davide, pronto? Buongiorno, buongiorno, sì. Sì, mi sente? Certo. Sì, ecco, io sono il padre di Oscar, ormai è diventato anche un personaggio abbastanza conosciuto perché è già stato qualche trasmissione televisiva a parlare della sua vicenda. E qual è? Non mi spieghi perché non ce l'ho presente. Oscar era stato da prima guardia del corpo. Oscar, posso fare anche nome e cognome? Che ne so, è suo figlio. Ormai è un personaggio conosciuto, ha scritto anche un libro, Oscar Morando. Ah, il famoso autista di Enzo Bossi. Era autista di Umberto Bossi. E poi dirottato su Renzo perché la famiglia pensava di fare diventare Renzo un grande personaggio politico, si sono accorti poi di avere fatto un grosso errore e lui quando è stato dirottato su Renzo gli è stata comunque data un'auto a Renzo con lampeggiante paletta, anche se non ne aveva diritto. Ma suo figlio cos'è? Fa parte della polizia oppure? No, privato. È un privato. Del corpo privata che si vedeva costretto, ma anche se lui aveva tutte queste perplessità, dice: ma come mai mi danno un'auto con lampeggiante paletta? Ma lui, Renzo, è un consigliere regionale, non possiamo fare questo. E aveva avvisato anche un amico della polizia dicendo: guarda, mi stanno costringendo a fare questo. Lui lo faceva perché sennò non gli davano lo stipendio, naturalmente. E ha avvisato questo amico della polizia, fa: guarda, io vado in giro con Renzo con la paletta e lampeggiante, lo porto avanti e indietro, lo porto anche in discoteca, lo porto dalle sue amiche, lo porto alle feste, però cacchio, dico, ma io rischio, sto facendo una cosa rischiosa, che se mi fermano cosa devo dire? E questo amico della polizia gli ha detto: non ti preoccupare, non dire niente, guarda, lo sappiamo come funziona con questi politici, il papà si chiama Umberto Bossi, perciò pensano di poter fare quello che vogliono, no? E lui si è trovato costretto, finché poi non è successo, come lei sa, il patatrac, Renzo. Vabbè, è anche diventato, su questo sta creando anche la sua celebrità, la sua notorietà, ha scritto un libro, quindi chiunque può attingere dalla fonte, non dal padre, diretta quello che sta la sua vicenda. Però salutandola, lo sentirà. Allora, Claudio Giardullo, che è segretario generale della SILP, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, che ha sollevato questo problema. Su queste due telefonate, i due casi nello specifico, la tutela che segue il personaggio tutelato anche in vacanza e la vicenda dei lampeggianti e le palette di cui si fa spesso un abuso sconsiderato, li vendono anche nelle chincaglierie cinesi, chiunque le compra li attacca, ma è possibile che si possa far così? Allora, su lampeggiante e paletta possono essere utilizzati solo se l'autista è dichiarato ufficiale di pubblica sicurezza con un decreto del Ministro dell'Interno e quindi la procedura è abbastanza rigorosa, altrimenti ovviamente siamo di fronte a degli abusi. Poi sui comportamenti, io insisto, la questione è etica da una parte e quindi soprattutto culturale. Cioè, il paese avrebbe bisogno di comportamenti più sobri. Se chi ha responsabilità politiche non riuscisse a avere maggiore sobrietà nei comportamenti, io penso che aiuterebbe l'Italia a superare anche la soglia di modernità che è molto ancora difficile evidentemente non abbiamo superato. Se una persona viene riconosciuta la tutela, è giusto che la tutela debba seguire ovunque, perché non è che in vacanza sì. È meno tutelabile, è questo il fatto. Sì. Non scandalizza a me tanto questo quanto capire se in realtà questa tutela è necessaria. Infatti il problema è a monte, capire se la persona ha attualmente un livello di rischio che giustifica un impegno di operatori e una spesa da parte del paese che gli consenta di fare una vita, come dire, più o meno normale. Adesso chiunque ha diritto a una vita normale, anche se sta correndo qualche rischio. Ovviamente, ripeto, la sobrietà da questo punto di vista è fondamentale. Onestamente, visto che lei è del mestiere, quanto una persona di tutela realmente può rappresentare una sicurezza per la vita, per il suo tutelato, in vacanza, al mare, in spiaggia? Il livello di tutela è inevitabilmente bassissimo, tant'è che è considerato il dispositivo ovviamente che protegge meno rispetto a tutti e viene assegnato quando c'è appunto un livello di rischio che è basso. È più virtuale, insomma, qualche volta ipotetico, la si dà a scopo di prevenzione per evitare che in certi momenti, quando ancora non c'è una previsione, non ci sono elementi per stabilire che ci possa essere un maggiore rischio, poi possa succedere qualche cosa. Apre uno scontrafuoco al ristorante o in discoteca, cioè mi sembra poco credibile. Ma quando anche dovesse succedere, ribadisco, la tutela non garantisce da questo punto di vista se non, come dire, la possibilità di fermare una persona che sta importunando, vuole importunare la persona scortata. Questo è il livello di protezione che può dare. Ecco, io volevo continuare a consultare gli amici corrispondenti, giornalisti corrispondenti, giornali esteri qua in Italia, per capire come in realtà è la percezione in altri paesi. Tobias Spiller, buongiorno. Buongiorno. Tobias è corrispondente del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dal tuo punto di vista, conosci molto bene l'Italia, ma conosci anche bene il tuo paese. Qual è la prima macroscopica differenza nell'osservare i politici in azione, con le loro scorte, con i loro uomini al seguito? Certamente la premessa è anche la Germania in paragone non ha avuto un ex primo ministro rapito dai terroristi o un professore ucciso al quale è stato tolto la scorta, no? Questo bisogna dire prima. Certamente, in Germania certamente gli elettori sono molto più critici e per questo non è facile, non sarebbe possibile per un politico tenersi la scorta oltre la data di scadenza del suo mandato, se non ci sono proprio elementi straordinari. Mi viene in mente l'ex ministro del lavoro, un gran signore che dopo tanti anni sempre in funzione di Stato, dove almeno aveva l'autista pubblico, ha ammesso a 70 anni che ho dovuto reimparare a guidare, perché appena non era più ministro ha guidato lui. Quindi diciamo il primo elemento da osservatore, puoi dirci Tobias, che non esiste questa sorta di prorogatio a tempo indeterminato dei privilegi e delle giuste tutele che ha un personaggio istituzionale pubblico anche oltre il suo mandato. Già i privilegi stessi vengono messi molto sotto torchio. C'è stata la ministra della salute dell'ultimo governo che ha fatto venire l'autista in Spagna per le ferie, solo l'autista, non una scorta, e la macchina è stata rubata, grande scandalo, e così la ministra ha perso tutta la sua autorevolezza solo con questo. Quindi c'è un'opinione pubblica che è molto vigile e non manda giù episodi come da noi in realtà infarciscono le cronache quotidiane, degli abusi, servizi delle Iene che inseguono i lampeggianti abusivi non autorizzati, le persone con la scorta vanno a fare la spesa ai supermercati e via dicendo. Sarebbe meno tollerabile, sarebbe molto più forte l'impatto. Io penso che non esiste, perché non si fa neanche per un giorno una cosa così. Quel signore che ha fatto causa contro quel fondo di salvataggio europeo alla Corte Costituzionale, no, Peter Gauweiler, era sottosegretario all'interno una volta per la Baviera, è stato chiesto di accendere i lampeggianti e la sirena perché aveva fretta, si è trovato spostato dalla polizia a gestire così le acque, perché non era possibile fare questo, un abuso. Questo che ci dici ci conforta, allo stesso tempo ci fa molto riflettere. Il nostro ospite sta sorridendo. Un lampeggiante usato fuori luogo e fuori l'urgenza necessaria ha fatto sì che fosse spostato, rimosso, defenestrato e castigato il responsabile di questo fatto. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Solo per... io non mi sento. Se la sento io, basta così. Ah, perfetto. Vi volevo segnalare che il fenomeno delle scorte coinvolge anche i giocatori di calcio prima e dopo le partite. Io chiamo da Palermo. Qualche giorno fa, due volanti a sirene spiegate, una precedeva, l'altra invece era immediatamente dopo. Il pullman del Palermo, in una zona tra l'altro residenziale Palermo che è marina, comunque in quel periodo era assolutamente deserta, a sirene spiegate ad accompagnare questi giocatori che avevano finito la partita, questo pullman. Mi chiedo se questa non sia anche una forma di spreco, visto che Palermo non è notoriamente una città a rischio per problemi calcistici. La stessa cosa le posso dire accade a Roma quando passa il pullman della squadra che la portano allo stadio, sempre al mio osservatorio domestico, è chiaro che ci sono le sirene intorno. Claudio Giardullo, che è il segretario generale del SIP, il sindacato italiano lavoratori polizia, non dobbiamo nemmeno esagerare, se hanno il dispositivo prevede questo, sì. Non è che se è una bella giornata o se è tranquilla non possono fare le stesse cose. Poi non dobbiamo ignorare che su questo settore abbiamo avuto diversi problemi, non sono state infrequenti le situazioni per cui i pullman dei giocatori sono stati oggetto per esempio di sassaiole da parte di gruppi di ultra violenti, ovviamente, specie quando c'è una certa rivalità tra le tifoserie, e siccome quella è una situazione di ordine pubblico in generale, perché da quella situazione poi ne possono scaturire incidenti ancora più gravi, lì si deve intervenire preventivamente. La scorta è più che giustificata, non è la tutela nei confronti soltanto di quelle persone, che di per sé mi pare, visto il settore, abbastanza giustificato, sì. Ma è quello di prevenire ulteriori incidenti, quindi non bisogna... Bisognerebbe aprire un'altra parentesi su quanto sia giusto dover blindare gli stadi, usare... Stadio è un tema... È un tema... Non che dovremmo guardare con una certa lente di ingrandimento. No, invece però Sì, tornando, facciamo sì, un punto, tornando, perché visto che è all'agenda anche del anche ministro Severino occuparsi dei tagli che vi riguardano, se voi poteste in qualche maniera avere voce in capitolo, cosa direste? Allora, intanto con riferimento alle scorte, anche le cose che abbiamo sentito da parte dei corrispondenti... Cioè, ministro Cancellieri, chiedo scusa, ministro Cancellieri. Cioè, dalle cose che abbiamo sentite anche dagli ascoltatori e dai corrispondenti soprattutto, mi pare che il Paese ha di fronte sul versante delle scorte soprattutto una questione culturale, diciamo. Cioè, serve più sobrietà e i politici che vogliono ovviamente portare l'Italia verso un maggior livello di modernità non possono non assumere comportamenti più sopra. Questa mi pare una questione fondamentale dal punto di vista dell'attività. Però, diciamo, il ministro Cancellieri ci sta su questa cosa, si è espresso ultimamente in occasione della vicenda Fini. Si è espresso, è stata molto chiara, e allora noi chiediamo al governo, al ministro Cancellieri in particolare, coerenza anche dal punto di vista delle risorse, nel senso che qui siamo di fronte a risorse che andrebbero risparmiate, come abbiamo detto, c'è la possibilità di risparmiare significativamente. Diciamo, i tagli dove andrebbero fatti? I tagli andrebbero fatti sull'eredità di chi non ha più un ruolo istituzionale, innanzitutto. Soprattutto. Più o meno quanti sono? Bisogna fare un'analisi di merito molto dettagliata. Guardi, sulle scorte ovviamente i numeri sono un pericolo, certo. Nel senso che io ricordo che in fondo una parte della causa che ha portato a quello che è successo a Biagi è, come dire, aver immaginato che le scorte si potessero tagliare di una certa percentuale. Quindi nessuno si prende questa responsabilità. No, bisogna capovolgere l'ottica, cioè le scorte vanno assegnate e revocate con un'analisi rigorosa di merito, cioè con riferimento alla singola persona. Nell'assegnazione è già garantita questa cosa, nella revoca va mantenuta. Abbiamo bisogno di maggiore coerenza da parte di tutti i governi. E abbiamo bisogno che questo governo, per esempio, perché di questo parliamo, come dire, cambi atteggiamento rispetto ai tagli. Allora, un riferimento anche qui all'Europa. Anche qui, da questo punto di vista, abbiamo bisogno di avvicinarci all'Europa. È stato detto anche in qualche modo implicitamente dai corrispondenti. Allora, Hollande, per capirci, ha fatto dei tagli alla spesa pubblica recentemente, ma ha derogato in due settori, la scuola e le forze di polizia. Nel nostro paese sono stati fatti dei tagli e alcuni dei tagli maggiori sono stati fatti alla scuola e alle forze di polizia. Si sega sulla scuola e forze di polizia. E invece questi due settori sono delle infrastrutture fondamentali per la crescita del paese. Abbiamo al telefono un fotografo inglese che lavora tra l'altro con il New York Times, Chris Ward-Jones. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lascio a te proprio l'idea, visto che... se tu sei inglese sai bene che in questo momento diciamo l'attenzione rispetto alle indiscrezioni che riguardano personaggi importanti nel tuo paese sono all'ordine del giorno. Ma vediamo come vedono appunto gli inglesi il problema della tutela dei personaggi della politica, dei personaggi pubblici. Ma guarda, io sono in Italia da moltissimi anni e è chiaro che essendo inglese faccio dei confronti con quello che succede nel mio paese. In Inghilterra non c'è questa, io la chiamerei arroganza, di andare in giro con scorte, a volte più macchine, non solo una, che vanno contromano, lampeggiano, suonano. Non c'è questo. È chiaro che il primo ministro ha una scorta e ha una macchina particolare per arrivare dove deve andare, però non lo fa in modo molto arrogante. Non si trovano file di macchine blu che appunto vanno contromano in modo, direi, abbastanza pericoloso. I cittadini non percepiscono l'idea che esista questo, da noi? Assolutamente no. Io lavoro qui alla sede della stampa estera al centro di Roma e ci sono a volte macchine blu parcheggiate sul ciglio della strada che bloccano il traffico, e questo è permesso perché evidentemente in un palazzo vicino sta succedendo qualcosa di importante. Ma in Inghilterra, a Londra per esempio, che è una città molto più grande di Roma, questo non si vede, non c'è. I politici, diciamo, non scomodano la popolazione per continuare a fare il loro lavoro. Quindi c'è un maggior pudore anche nell'ostentare quello che sono degli orpelli necessari del ruolo istituzionale. Io ringrazio i corrispondenti, io ringrazio anche Claudio Giardullo. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo dato un'idea di quello che è il confronto fra il nostro percepire, il nostro stato d'animo e quello di cittadini di altri paesi. Siamo in Europa, siamo in un grande mondo, vediamo se anche da questo possiamo cominciare a esserlo veramente. A domani.